Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, ben ritornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo già lo sapete, è un programma in italiano, non solo per italiano e italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, in streaming all over the world alla web della nostra storica Radio Libera barcellonese. E poi ovviamente ci sono anche i podcast che noi abbiamo da oltre una decina d'anni, esattamente 12 anni, marzo del 2011, e li trovate sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi 17 marzo, puntata ricca, micifico, una puntata dedicata alla musica italiana. Quale? Beh, soprattutto alla nuova musica italiana, però ve lo spiegheremo tra poco, perché insomma abbiamo due ore di musica, due ore di chiacchiere, due ore di nuove scoperte musicali, e cominciamo subito con un brano di un artista di cui abbiamo parlato in realtà anche la settimana scorsa. Lui si chiama Checco Curci, il suo nuovo album è intitolato Anche solo per un saluto, e questa canzone è Che sia la notte. Che sia la notte a prendersi tutto, ogni parte di noi, ma non sarà lo stesso vederti arrivare se anche c'è. Un lieto fine non fa per noi non c'è mai tregua. Non c'è pace per chi ha troppa memoria, in noi non c'è. No, non c'è. Non c'è lirica, non c'è magia. Non c'è nulla di teatrale. Preferiamo questa terra da mangiare. Ma cos'è? Che si alza dai campi, che ci separa dal giorno, dei giorni che ormai non ha voglia di restare lì ad aspettarci. No, non c'è spazio per la fantasia, non c'è niente di immortale che non possa consumarsi o tramontare. Ma cos'è? Thank you. amore mai, neanche nei sogni. Che sia la notte, questo è il titolo di questa bellissima canzone di Checco Curci con cui abbiamo aperto lo Zibaldone di questa settimana, anche solo per un saluto al suo nuovo album, un album d'esordio che è uscito pochi mesi fa, a fine gennaio di questo 2023. Banzo, innanzitutto bentornato, Enrico Banzola ergonomico più che mai, torna Zibaldone, come stai Banzo? E come vuoi che stia? Non lo so, dicelo tu. Sto. Comunque, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Non perdiamoci in queste domande da medico di famiglia, per favore. Hai ragione. Invece parliamo un po' della canzone di Checco Curci, che non è solo la canzone d'esordio, d'apertura della nostra puntata, ma è anche il primo pezzo del disco, anche solo per un saluto, quindi inizio dell'album e anche inizio della puntata, e in effetti serve benissimo per questa finalità introduttiva con l'inizio, diciamo, che permette all'ascoltatore di ambientarsi e lo porta poi in una canzone veramente affascinante, come hai sottolineato anche tu. Io personalmente tendo ad apprezzare il cantautorato quando c'è una certa, non dico estrosità, però una eterodossia, eterogeneità degli arrangiamenti, e in questo caso diciamo che mi piacciono molto gli arrangiamenti del brano. Sì, molto molto, ma è bello tutto il disco, ne avevamo parlato la settimana scorsa con Berardo Stagliano, potete andare a cercarvi il podcast sul nostro blog. Banzo, abbiamo aperto con Checco Curci una puntata che è una puntata, se così vogliamo, speciale, così, o particolare, o peculiare, a cui abbiamo dato il titolo Il rapporto Italia marzo 2023. È un po' una gag, se vogliamo, ma spieghiamola ai nostri ascoltatori. Beh sì, è una gag, anche perché siamo un po' degli allegri burloni, e io non la definirei una puntata speciale, nel senso che userei questo termine, attenzione, non si sta verificando una faida in diretta, Non parlerei di puntata speciale, nel senso che è più il caso dei monografici che abbiamo proposto anche negli ultimi mesi. È più, diciamo, una esplorazione musicale di alcuni dischi italiani usciti, diciamo, più o meno negli ultimi mesi, più o meno a partire da settembre, anche se c'è qualche eccezione, che ci sono piaciuti, ci hanno colpito, ci sembravano meritevoli, e quindi, siccome, ecco, Zibaldone è un programma in italiano da Barcellona, è comunque anche bello guardare alla musica che esce dalla madrepatria, che continua a essere molto interessante, però va trovata, perché spesso non è facile imbattersi nelle giuste vibrazioni, ecco. E la gag era semplicemente che, non lo so, abbiamo pensato alle statistiche che vengono pubblicate periodicamente, per le quali si usa la parola rapporto, quindi diciamo che qui non abbiamo nessuna pretesa di esaustività e sistematicità, però ci piaceva l'idea, appunto, di dire: guardate ascoltatori, vi stiamo proponendo un excursus, abbiamo preparato qui un bel file da consultare con alcuna musica, qualche musica italiana degli ultimi mesi che potreste esservi persi. Eh sì, e quindi questo è il nostro rapporto Italia, un po' diverso da quello del Censis, ma è appunto è quello di Zibaldone. Andiamo con la seconda canzone e andiamo ad ascoltarci Zois, Solo rumore di fuochi. Mi metto coi piedi distesi, apro la finestra e faccio parlare il cuore. Gli anni, lui mi porta la voce degli anni, tutto un vento rosso di memorie che rovescia i pensieri, mi porta la voce degli amici partiti senza lasciare alcuna traccia. Se giorno ascolto parlare il cuore, lungo un muro vedo un vecchio passare, con la faccia in un silenzio duro, ascolto un cumulo di storie salire dalla sua faccia e gridare. Pretese, hanno freddo, silenzio, hanno le stanze vuote, hanno le stufe raramente accese, muoiono in solitudine, con il lenzuolo sul viso, sopra un letto, diviso da una tenda, li portano via in fretta, perché non si può aspettare, perché lì un altro ci deve entrare per morire così. Il mare, lui mi porta la voce del mare, lui mi porta la voce di un marinaio che urla con i compagni, mi porta la voce di una donna, rumore di fuochi nella pianura. Allora non ascolto i cani abbaiare, non mi accorgo che sono sola e che qualche volta ho paura. Solo rumore di fuochi, loro sono Zois, Etilene per tutti è il titolo di questo disco, uscito nel 2023. Quest'oggi non c'è solo il Banzo, ma c'è anche il nostro Fausto De Salvi, autore dell'ultimissimo e collaboratore da molti anni di Zibaldone. Fausto, bentornato a Zibaldone. A bomba, bellissima questa canzone degli Zois, un progetto interessante che tra l'altro riscopre alcuni testi che insomma non erano stati messi in musica, o meglio dire interpretati, dal grande Lucio Dalla. Esatto, ciao a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi a Zibaldone, quindi questi speciali o semi speciali come in questo caso, quindi facciamo questo recupero di uscite dell'ultimo periodo. Questo è un album che i Zois, un gruppo bolognese, stanno preparando da diversi anni, perché nasce tutto da Antonio Bagnoli, il responsabile delle edizioni Pendragon e nipote di Roberto Roversi. Lui ha ritrovato questi sette testi in una cartellina intitolata Testi per Dalla. perché appunto sappiamo che Roberto Roversi, dopo i famosi tre album scritti con Dalla negli anni 70, aveva interrotto i rapporti, naturalmente si erano allontanati per un lungo periodo, però a fine anni 70 aveva comunque scritto questi testi e che nessuno aveva mai musicato. Li aveva messi da parte, ritrovati, Bagnoli li ha proposti a questo gruppo bolognese che composto da Valentina Gerometta, Stefano Di Chio, con la collaborazione di altri musicisti come Ivano Zanotti, che molti ricorderanno, è stato anche il batterista dei musici di Francesco Guccini, quindi sì, comunque anche in ambito cantautorale. E quest'album doveva uscire, diciamo, in periodo del 2020, poi si sa, è successo qualcosa di inaspettato e quindi hanno aspettato il centenario di Roversi, perché è un anniversario tondo anche quest'anno, non sono solo gli 80 anni di Dalla e di Battisti, ovviamente, come abbiamo già ricordato, ma sono anche i 100 anni dalla nascita di Roberto Roversi. Quindi abbiamo questa veste pop elettronica che diciamo crea un contrasto abbastanza evidente con testi concepiti a fine anni 70, ma piuttosto profetici, come vedremo anche nel prossimo. Eh sì, e infatti andiamo ad ascoltarci proprio il brano che dà il titolo al disco, Etilene per tutti, un disco uscito all'inizio di questo 2023. Ancora qui sono gli Zois a farci compagnia in questi primi minuti dello Zibaldone di quest'oggi. La piana di Sibari è una grande pianura. Alla notte i guerrieri si alzano con l'armatura. Queste ombre chiamano e nessuno risponde. Gli uccelli con ali d'oro volano sopra le onde. Volano sopra le onde. Ma oggi su questa pianura c'è l'etilena quintali sul sonno. Vabbè, si sente un po' la mano di Roberto Roversi, questi testi che sono davvero belli, davvero particolari. Fausto, secondo brano che abbiamo proposto degli Zois, Etilene per tutti. Esatto, qui partiamo da un fatto di cronaca. Praticamente Roversi, che ovviamente era un avido lettore di quotidiani, legge della prospettiva di appunto realizzare una fabbrica di etilene nella frazione di Sibari in Calabria, e da qui naturalmente la sua fantasia lo porta a immaginare questo scenario dello sviluppo naturalmente tecnologico di quella zona, con questo appunto parallelismo fra i cavalieri che si alzano con l'armatura, molto suggestivo. In realtà poi la fabbrica non si fece più, però naturalmente il testo è rimasto, e insieme agli altri sei testi ritrovati fa parte di non solo di un disco, ma anche di un volume uscito in questi giorni, che si titola Il mondo è da rifare. Sono sette racconti da sette canzoni di Roberto Roversi. Praticamente Simona Vinci, che conosciamo bene, ha selezionato sette autori che dalle tematiche sollevate dai testi di Roversi hanno costruito sette nuovi racconti. Quindi diciamo che quindi è un'opera multimediale in questo senso, quindi sia il disco che il libro, ecco. Vabbè, sono molto belli questi progetti, sono sempre importanti. Noi andiamo con un'altra canzone, troviamo altri due artisti, loro sono Giovanni Mancuso e Deborah Petrina, il brano si intitola Dove va? Dove va, va, va. Questo è un brano molto breve, sembra quasi Fausto, in realtà quasi una specie di jingle che ci permette di passare a conoscere nuovi artisti. Deborah Petrina e Giovanni Mancuso, un brano di appena 50 secondi tratto da Nuovo Mondo Symphonies. Spiegaci qualcosa, raccontaci qualcosa al riguardo, Fausto. Esatto, è un nuovo progetto di Deborah Petrina, che è una cantautrice con ormai quasi 20 anni di carriera, fra l'altro finalista al Tenco diverse volte, cantautrice, pianista, chitarrista, quindi polistrumentista, ha collaborato anche con David Byrne, quindi davvero con grandi nomi, e ha realizzato pochi mesi fa con Giovanni Mancuso, che appunto è compositore e pianista, questa praticamente sinfonia dedicata all'esplorazione di un mondo inesplorato con una lingua immaginaria, quindi che prende elementi delle varie lingue umane naturalmente, ed è un progetto molto affascinante. Io ho scelto, visto che sono 24 passaggi, ho scelto il primissimo, diciamo la intro, ecco, anche perché alcuni pezzi erano piuttosto lunghi e non erano adatti per un programma radio di 2 ore, a meno che non volessimo trasmettere l'intera sinfonia, però è un progetto davvero molto, insomma, diventa complicato, però sì, è davvero un progetto interessante. Fra l'altro, vedi, la Deborah Petrina ha pubblicato quasi contemporanea anche il suo nuovo album come cantautrice, per la prima volta affrontando interamente la lingua italiana, e infatti credo che andremo a ascoltarci qualcosa anche proprio ora, sì, proprio ora. L'età del disordine è un disco uscito ovviamente da poco, come tutte le canzoni, tutti gli album che vi stiamo presentando in questa puntata di Zibaldone, e andiamo ad ascoltarci Begonie. Ci sono sempre alte più di 2 metri. Più di 2 metri, più di 2 metri, più di 2 metri. Più di 2 metri, più di 2 metri, più di 2 metri. La mente si offusca, il caldo mi uccide, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa, mi scoppia la testa. Mi butto dalla finestra, orrenda visione, le piante dentro e io sul balcone. Dalla finestra le vedo bene, nella mia casa fan da padrone. Ridono, bevono, giocano a carte, tutte le sere mi innaffiano ad arte. Sprofondano i piedi, le mani, le ossa, quel vaso di terra è già la mia fossa. Molto bello questo Begonie dall'età del disordine, lei è Petrina, album uscito nel 2022. Fausto, una delle poche artiste italiane inserite nella playlist di David Byrne insieme a Carmen Consoli. David Byrne che tra l'altro fece anche un cameo in una canzone proprio di Petrina. Sì, nell'album che uscì una decina d'anni fa, quindi parliamo di un'artista poliedrica, perché se andiamo a vedere anche i video, anche il video di Begonie, lei stessa interpreta da protagonista, no? Siamo non solo i semplici video in cui il cantante canta in playback, diciamo, veramente sono video molto inventivi, è un'arte a tutto tondo. È un artista da seguire, io ammetto, mi cospargo il capo di cenere perché ammetto che l'ho scoperta pochi anni fa e effettivamente sto recuperando e quindi... Bene. Ti invito tutti a recuperare. C'è sempre tempo di recuperare, quello che stiamo facendo anche con questo programma. Andiamo ad ascoltare un artista che invece lo conosciamo bene e molti di voi sicuramente lo conosceranno, Alessandro Fiori, Trasloco, questo è uno dei suoi nuovi brani. Simpatica come un gavettone, fai la luce proprio come un lampione, ma non ti posso vedere, no no no, non so perché io non ti posso vedere. Andiamo a fare un bel bagnetto in piscina, andiamo a sentire i caribù, ma non li posso sentire. Non so perché io non li posso sentire. Ci siamo, adesso sono un barbone in borghese, mi piace anche lavorare, no, no, no, non so perché, mi piace anche lavorare. Da piccolo volevo fare il barbone, adesso sono un cantautore borghese, ho anche delle pretese. Voglio una casa e un furgone. Ci siamo lasciati andare. Molto molto bello questo brano di Alessandro Fiori, Trasloco, da un 45 giri uscito proprio in questi primi mesi del 2023. Non voleva, insomma, sembra Banzo fare il cantautore, alla fine si è trasformato, lo dice lui, in un cantautore borghese. Tanta ironia come sempre nei brani di Alessandro Fiori. Allora sì, questo 45 giri è uscito il 27 gennaio, così lo dico per amore di precisione, sono qui che sto limonando con la precisione, e il titolo è Trasloco e passeggiata, cioè rispettivamente il titolo del lato A, la canzone che abbiamo appena sentito, e del lato B. E effettivamente, diciamo, non voleva diventare un cantautore, lo è diventato, sembrerebbe, questa canzone lo fa pensare, e sarebbe anche bello se una volta diventato cantautore diventasse, ecco, uno dei nomi più rilevanti del pop italiano, ecco, perché questa canzone effettivamente secondo me presenta tutte le caratteristiche, sì, del migliore easy listening, e sarebbe bello se Fiori ottenesse un successo commerciale che finora non ha avuto su larga scala, diciamo che è più nella nicchia degli adorati dalla critica, e non so se noi possiamo definirci critica, però nella redazione di Zibaldone effettivamente lo adoriamo. E una brevissima nota su questo singolo, che appunto si intitola Trasloco passeggiata, segue l'album Mi sono perso nel bosco del 2022, che vi avevamo fatto sentire a suo tempo, andate a recuperarvi la puntata del 22 aprile del nostro podcast. E comunque non paghi, adesso vi facciamo sentire anche il lato B, passeggiata. Tra l'altro vediamo se ha lo stesso incipit così bello e stralunato del brano precedente. Sei simpatica, se non ricordo male, come un gavettone, diceva in Trasloco. Beh, sentiamo come comincia passeggiata, Alessandro Fiori. Ti proposi di passeggiare tutto il giorno con me sulla riva. Volevo arrivare alla Spezia a guardare le navi sparare, stancarci per bene la sera, svenire nel rombo di una cannoniera, le schegge di luna segnare per sempre la pelle di due innamorati che fanno la nanna compendio di una stupenda giornata. Ma che passeggiata! Sognavo il tuo pube e la sabbia tra i riccioli duri, volevo ascoltare gli spari e baciarti la fronte guardando una nube di panna montare e mutare da ponte a confetto, sale una volta che all'amore c'è poco, ma il fitto di gente ed è un forno. Mi basta guardare i tuoi piedi e contare migliaia di passi al ritorno. Tu non ti sei presentata perché eri soltanto un'idea. Sono rimasto nell'afa del molo a fissare il gelato ai turisti, a sporcarmi le mani stringendo un pinolo, a pensarti croccante plebea, a studiare l'ormeggio perfetto immobile come un cecchino lasciato da solo all'apnea del mirare un deserto. Ma che passeggiata, ma che passeggiata, ma che passeggiata. E beh, di canzoni dove si nomina La Spezia non è che ce ne siano molte, insomma, da quanto ricordo. Chiederemo anche a Fiorino, ovviamente, che lui è di La Spezia. Banzo, questo è uno dei plus, sicuramente, ironicamente parlando, di questa passeggiata di Alessandro Fiori. Beh, effettivamente non so se La Spezia è molto molto menzionata nel songbook italiano. Dicevi, vediamo se l'incipit è altrettanto surrealista, non so, dipende da qual era il punto di partenza della passeggiata. Comunque ce la siamo fatti questo giretto e diciamo che adesso i nostri ascoltatori vi abbiamo mandato due brani, dopo un trasloco ci vuole una bella passeggiata e i nostri ascoltatori potranno ringraziarci citando il titolo della canzone vincitrice del primo festival di Sanremo, ecco. E continuiamo, Banzo, non fare queste cose retoriche che poi c'è qualcuno sicuramente che non coglie. Ecco, questa battuta era un po' al limite, l'ho lasciata però appunto così, ecco, nell'ombra per non fare cadere, diciamo, la mandibola a tutti, ecco. Sono stato gentile, ma ecco, parlavamo di poetica surreale che troviamo in pieno anche nel prossimo artista, Steven, che è a sua volta una nostra vecchia conoscenza. Eh sì, è stato anche a Barcellona, ci ha fatto visite, ormai parliamo del 2014, credo, quando venne a Barcellona anche a suonare insieme a Vittorio Cane. Dejan, conosciuto anche per la sua collaborazione con l'Orso Glabro, in questo caso è appena uscito da pochissimo un suo nuovo disco, Figure, da solo Dejan. Andiamo a ascoltarci subito il primo brano, Banzo, poi ci racconterai qualcosa. Deltaplani. Deltaplani. E non ci riprendono più satelliti non troppo lontani, ma che non trasmetto. Noi siamo due elefanti, cannibali e Zulu, cartoni animali sui nostri canali che non trasmettono più. Noi siamo due pesci strani con forme sbagliate, perdenti, affiliati ai segnali disturbati. Mai più. Tramonti e kamikaze in centro nella boutique, bello. Antenne puntate su vecchie puntate che non dan più perché adesso fanno le serie. Però non ne girano più persone se riecco quei lupi da nonne truccati nel buio dipinto di blu. Ma noi siamo i deltaplani, contenti e sbagliati nei venti inquinati e i soffitti coinventati. Sono venuti giù, abbiamo in casa i vicini di casa, il cielo, la stanza, la nostra distanza. Satelliti della NASA non torneranno mai più, non torneranno mai più. Dejan Deltaplani è il titolo di questa canzone, di un album appena uscito, Figure. Banzo, cosa ci puoi dire su queste figure? Marzo 2023, giusto? 10 marzo 2023, graditissimo ritorno di uno di quegli artisti ai quali vogliamo bene, appunto, perché come spiegavi anche tu, abbiamo avuto un contatto più diretto e il piacere anche di approfondire l'aspetto umano con Dejan, che è un personaggio straordinario. È tornato per me un po' sorpresa, perché avevo un attimo perso i suoi passi, ma in realtà questo disco era in lavorazione da tempo, era stato annunciato da dei singoli. Adesso è uscito appunto il 10 marzo per Tega, l'etichetta dei CPC Maxi Gross, vedremo più avanti, e Gigia Booking, e ci ripropone un Dejan in grandissimo spolvero, come lo abbiamo ritrovato effettivamente tutte le volte che lo menzioniamo. Anche a me sembra che manchi un pezzo, perché sono abituato appunto a aggiungere il gruppo, l'Orso Glabro, no? Però Dejan si regge benissimo sulle sue gambe, questo pezzo è splendido, c'è tutta la sua poetica surreale, il testo che è quasi pirotecnico nel susseguirsi di giochi di parole sotto traccia che però non incrinano l'equilibrio della composizione. E su Deltaplani, per concludere, prima di passare a un altro brano dal disco di Dejan, volevo segnalare che in realtà era già uscita in qualche modo, ancora una volta userò la parola sottotraccia, in un progetto, Dejan e il suo caro alfabeto, una pagina Bandcamp che non ha avuto ulteriori uscite, presentata da Giacomo Laser, musicista, collaboratore anche di Dejan in più occasioni. È una specie di podcast strano di 17 minuti uscito nel 2019, c'è anche un frammento di questa Deltaplani però con un arrangiamento diverso, quindi io la conoscevo da allora e sono andato a cercarla subito sperando che fosse nel disco nuovo. Bravo Banzo, e andiamo ad ascoltarci una seconda canzone di Dejan, sempre da Figure, si intitola Zagor. È stato sempre il mondo un vero re, con tutti quelli senza Dio e senza sé. Sono guariti quei randagi in quel momento, il giorno che ha smesso di essere un'idea, soltanto che non c'è mai stato un secondo, un doppio riflesso. Se tutto il mondo è una quinta, tu dietro fai finta. Nell'intenzione troverai il naufragar delle onde sulle sponde, nei prati, nelle ombre, oltre il velo delle stelle, nell'eco che risponde al dato nel momento, al fatto nel contesto, contesto bene senza i miei perché. Non è il grigiore che ti cambia, realizza. Trasforma. Paziente è stato sempre il tempo insieme a te, per tutti quelli senza Dio e senza re. Mi contraddico, io lo so, dal primo gesto, il giorno che ho preso a farmi la mia idea, chissà perché. È una canzone più intima, forse, questa, vero Banzo? Questa Zagor, sempre del nostro Dejan, che approfittiamo anche per salutare. Ma devo dire che al momento di selezionare i brani di Dejan mi sono trovato in difficoltà, perché ero sicurissimo, come si è capito da prima, di voler trasmettere Delta Plani. E per il resto è un disco che andrebbe ascoltato nella sua interezza, non possiamo fare un monografico, e sono stato molto indeciso sul secondo brano. Devo dire che mi sono anche lasciato un po' sedurre dal titolo, perché il riferimento, che poi, cioè, non è immediatamente collegabile al testo, al personaggio di Zagor, ha stregato il mio vecchio cuore di fumettofilo, e quindi la scelta si è indirizzata in quella direzione. Poi, peraltro, mentre invito Dejan, se ci ascolta, a farsi sentire, che volendo ci farebbe piacere rivederlo a Barcellona, mi sono reso conto, mentre trasmettevamo il brano, che il titolo della canzone Zagor, appunto, è anche un mezzo riferimento al prossimo artista, e poi magari al prossimo gruppo, per meglio dire, e poi magari Fausto ci può spiegare perché. E vabbè, noi allora ci andiamo ad ascoltare il primo brano che vi proponiamo di Crema, Spie, eccolo qui. Beh, spie, questo è il titolo della canzone, Cinema Soda, l'album uscito all'inizio di questo 2023. Fausto, forse però c'è bisogno di spiegare ai nostri ascoltatori chi sono i Crema. Sì, Steven, i Crema sono Vittorio Ondedei, Enrico Liverani e Daniel Gasperini, prima fino a pochi anni fa conosciuti come Ruben Camillas, Michael Camillas e Theodor Camillas, erano tre dei quattro fratelli Camillas. Ovviamente il fratello che non c'è più è Mirko Bertuccioli, in arte Zagor Camillas, che purtroppo ci ha lasciato all'inizio della pandemia, subito nel 2020. Ovviamente Ondedei ha subito chiarito che non avrebbero continuato come Camillas, che sarebbe nato un nuovo progetto, e questo nuovo progetto è appunto quello dei Crema, che ovviamente si mantengono in linea con lo stile dei Camillas, però comunque con un'attitudine già più power trio, perché alla fine siamo di fronte a un gruppo con chitarra, basso e batteria, le tematiche sono più o meno ovviamente quelle, però con uno stile diverso, e abbiamo fra l'altro la scelta di pubblicare un album il 9 febbraio, cioè in contemporanea con Sanremo, quindi è davvero questa deliziosa inconsapevolezza del mondo musicale mainstream che è attorno, nonostante fra l'altro i Camillas avessero avuto un successo comunque mainstream a livello televisivo anni fa. Naturalmente questa geniale inconsapevolezza. Quando parli di power trio penso sempre ai Cream, e allora insomma tra Cream e Crema non so se c'è qualche riferimento più o meno velato. Andiamo ad ascoltarci un'altra canzone Europop, sempre da questo album Cinema Soda, come tu ricordavi, uscito a febbraio di quest'anno. Distesa di feste e non ascolti le giostre. Sono sicuro che vinci, che ti circondi di fauci, ma mi rimane un affranto che si ricorda dei costi. Si è nascosto fra i sassi una guerra fra maschi, tra falchi e disastri. Un agevole salto ricoperto dai freddi, uno sciopero umano. Thank you. questa è più una ballata rispetto al pezzo così rock precedente dei Crema. Euro pop, cosa possiamo dire su questo brano rapidamente, Fausto? Ma rapidamente, appunto, è l'altra faccia dei Crema, quella che magari ricorda anche le vecchie storiche ballate acustiche dei Cabilas come Bel Pomeriggio e tante altre. E c'è un particolare in questo brano che fra i suoi autori c'è proprio Mirko Bertuccioli. Zagor aveva fatto in tempo a scrivere questo pezzo, era uno dei due brani che erano già pronti per il futuro disco dei Cabilas, che purtroppo non è mai uscito. E quindi ovviamente i suoi compagni del gruppo l'hanno completato con un arrangiamento che immagino rispetti l'originale, però sì. E quindi c'è comunque un tributo alla figura di Zagor. Eh sì, qui ritorna Zagor, che prima avevamo fatto ascoltare nella versione canzone di Dejan. E a proposito di, oltre a Dejan, altri artisti che abbiamo avuto ospiti qui negli studi di Radio Contrabbanda, Zibaldone, negli anni scorsi, ci sono anche i C più C uguale Maxi Gross, o detta all'inglese C plus C equal Maxi Gross, una band davvero interessante. Tobia Poltronieri è il suo frontman, insomma hanno suonato anche al Primavera Sound. Andiamo ad ascoltarci una canzone tratta dal loro ultimo album appena uscito, Cosmic Reese. Il brano si intitola Battelli Ebri, eccola qui. Bruciava in te, ora non sento più nulla, solo una voce risuona in me. Ho fatto un sogno in cui eri qui davanti, e come tutto dopo svanivi, quanta paura di non amarti abbastanza. È stato un rischio, alla gente, perché ognuno chiederai come stai. Dopo un milione di passi, anche il deserto sarà casa per noi, e torneremo in Etiopia a scusarci della nostra condotta ingloriosa. Bruciava in te, ora non sento più nulla, solo una voce risuona in me. Cosmic Res, sempre molto particolare la sonorità, i ritmi e la forma di comporre canzoni dei C più C equal Maxi Gross, che però anche in questo Cosmic Res, Fausto, ormai hanno davvero deciso di cantare in italiano. All'inizio cantavano essenzialmente in inglese. Eh già, da diversi anni i CPC, io li pronuncio così, scusate, ma evito pronunce, l'inglese non è il mio forte. E anche in questo caso abbiamo appunto un album principalmente in italiano, e anche qui siamo di fronte a un album che è dedicato a una persona. In questo caso è dedicato, come hanno scritto i CPC, al fraterno zio e maestro Miles Cooper Seaton. Eh sì. Storico, è esatto, che anche lui è venuto a mancare nel 2021. Con cui avevano collaborato. Per tanti anni era stato praticamente un membro aggiunto, avevo avuto anche il piacere di vederli dal vivo diverse volte insieme con lui. L'album è lui dedicato, infatti qualche riferimento c'è, fra l'altro sottolineiamo in questo brano, cantato da Tobia Poltronieri, il passaggio sulle scuse all'Etiopia per la nostra condotta ingloriosa, che è veramente un passaggio da sottolineare. E comunque è un album veramente interessante, perché comunque è uno step, un passaggio ulteriore verso sonorità comunque con qualche spruzzo di elettronica a contaminare il folk psichedelico che è tipico dei CPC. Eh sì, e lo scopriremo anche, o lo ascolteremo in una versione diversa in un altro brano, sempre tratto da Cosmic Res. Io me ne sto fermo ad aspettare, eccoli qui, sempre i CPC, come li ha chiamati giustamente Fausto. Nero notturno che si espande fra le fronde della mia testa spettinata, aggrovigliata. Stare fermo e ascoltare il vento nero, gli stenti soffiare. Estiva, senza saliva, lupi e cicale ora dormono. Io non dormo più da giorni, i pensieri mi tornano. Ti vivo ancora tutte le gioie passate, andate e ora. Cielo blu. Ora è molto particolare, sempre ci riporta un po' agli anni 70, Fausto, in qualche modo la musica dei C+C, i riferimenti si notavano all'amico che se n'è andato lontano, no? E l'ultima cosa che mi sembrava interessante di questo brano è anche la voce, non è quella di Tobia Poltronieri, se non sbaglio. No, si tratta di Niccolò Cruciani, in arte Cru, che è l'altro, diciamo, membro storico dei C+C, perché ovviamente hanno avuto tantissimi cambi di formazione negli anni, e fra l'altro Cru, in arte Cru, ha pubblicato anche lui un album solista l'anno scorso insieme con Tobia, quindi davvero non stanno mai fermi, quindi sono sempre davvero produttivi, sono, diciamo, tutto quello che gira attorno allo studio Tega, ricordiamo il mitico studio Tega veronese, che continua a sfornare produzioni sempre interessantissime. Fra l'altro qui c'è anche al sax, ricordiamolo, Laura Agnusdei, ex Julie's Haircut, che appunto ha collaborato con loro in questo brano. Eh sì, tra l'altro i C+C, no, che vivono appunto fuori Verona, nelle montagne appunto delle Prealpi, appunto un po' più a nord di Verona, e spesso hanno registrato i loro album, la maggior parte, ecco, adesso correggimi se sbaglio riguardo a questo Cosmic Race, però sempre in questo studio che è praticamente una casa in presa diretta, e è una cosa molto bella, è molto anni 70 se vogliamo. Sì, sì, loro sono davvero anni 70 nel senso più bello del termine, ecco, più intenso. Eh sì, andiamo avanti, troviamo Everest Magma con questo brano che si intitola Marco. Particolare questa proposta degli Everest Magma, Marco, da un disco uscito nel 2022 intitolato Alto Piano. Banzo, a me hanno ricordato un po', se vuoi, addirittura i Pink Floyd in alcune cose, queste sperimentazioni, questi rumori uniti alla musica. Beh, sicuramente siamo in territori anni 70, questo è pacifico, e mi sembrava anche giusto avvicendarli ai C+C per mantenere questa vibra settantiana che ci piace così tanto. Però a me e anche a Fausto ha fatto pensare a un altro nome, cioè quello di Claudio Rocchi. Perché in effetti c'è quell'aria stonata che rimanda a questo grandissimo outsider della nostra musica, e effettivamente potrebbe essere uno dei riferimenti, lo cita anche la stessa etichetta, che è la Maple Death di Bologna, fondata da Jonathan Clancy, ex Settlefish, East Clancyness, e diciamo qualcosa di più sugli Everest Magma, che sono il progetto di musicista già attivo come Rella the Woodcutter, un progetto che aveva un tono più, diciamo, folk, blues, post-blues alternativo, mentre qui Everest Magma era più sul piano della musica estatica, con tutti questi riferimenti settantiani, tape manipolati. E questo disco, diciamo, che un po' integra anche elementi folk in questo contesto stonatissimo, non nel senso di non azzeccare le note, per chi non l'avesse capito. E poi, per le mie curiosità personali, io mi sono innamorato di questo brano quando ho sentito che fra le prime parole c'era l'acerto. Ecco, dicevamo quante volte viene citata la spezia nella musica italiana, ma anche la parola l'acerto non è frequentissima. Quindi ringraziamo Everest Magma per averci fornito questo preziosismo lessicale. E rimaniamo, cambiamo artisti, ma rimaniamo in casa Maple Death col prossimo brano, Steven. Eh sì, Bono Burattini, Dinner Illusion, eccola qui. Suono in un tempo trasfigurato, questo è il titolo del disco in cui è contenuta questa Dinner Illusion. Loro sono Bono Burattini. Banzo, effettivamente il suono in un tempo trasfigurato è un titolo davvero azzeccato dopo le note che abbiamo ascoltato. Ma io devo dire che quando ho visto il titolo ho pensato ad Atmosphere Library, cioè la musica da sonorizzazione nella quale si sono cimentati grandissimi compositori, spesso non assurti agli onori delle cronache, ma anche Ennio Morricone, o non più di tanto, ma anche Ennio Morricone. Però devo dire che alla fine era più una suggestione del titolo, perché anche se qui c'è qualcosa effettivamente di retro, ovviamente in senso positivo, rievocare atmosfere del passato con un'attitudine moderna e creativa, non il riferimento che avevo colto inizialmente alla Library, però nel suono non c'è. E comunque è una musica, anche questa, estatica, estremamente suggestiva per un disco che io vi consiglio assolutamente di approfondire, ma bisognerebbe dedicare anche due parole a chi l'ha composta, perché finora abbiamo detto Bono e Burattini. Si tratta di Francesca Bono degli Ofelia Dorme e Vittoria Burattini, percussionista e batterista, che ha suonato anche coi Massimo Volume, per questo disco incentrato sul sintetizzatore Juno 60, che secondo me in generale ha un suono molto peculiare, però è in continuità anche con Everest Magma nel formare tutta la poetica sonora di Maple Death, perché anche questo disco esce per Maple Death. C'è questa attitudine sempre sperimentale, a volte anche scontrosa in alcuni dischi, che caratterizza l'etichetta, che io seguo con molta attenzione, perché propongono sempre album estremamente interessanti. Posso citare anche Rimorso dei Mai Mai Mai, che non abbiamo potuto includere per ragioni di spazio, ma che ha avuto un grande riscontro nella critica musicale italiana. Eh sì, e noi andiamo avanti e continuiamo questo rapporto Italia-marzo 2023. Troviamo i Villa con questo brano che si intitola Liberazione. Eccolo qui, e continuiamo, e sentite un po' qui su che sonorità andiamo a parare. Thank you. Liberazione, il titolo di questo brano dei Villa dal loro album omonimo uscito nel 2022. Fausto, devo dirti la verità che questo brano strumentale con queste sonorità, un brano davvero molto bello, mi ha ricordato alcuni dei brani strumentali di David Bowie, soprattutto della fine degli anni 70. Beh sì, direi che l'immaginario a cui si riferisce Roberto Villa, che appunto è, uso il nome d'arte di Villa, ma appunto è produttore bassista, l'immaginario direi che è proprio quello. È un album interessante, è il suo primo album intero, lui ha pubblicato alcuni singoli, ovviamente Villa da tanti anni come bassista è al fianco di molti gruppi della scena indipendente, siamo nel pieno della Romagna, lui ha fondato la meritoria etichetta L'amor mio non muore, una etichetta con produzioni dichiaratamente analogiche, quindi proprio uno studio old school, old style, e lui come bassista ovviamente per anni ha lavorato sia con i Ronin di Bruno Dorella, con i Gang, quindi parliamo anche di una band combat rock, e in questo caso ha voluto fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito, e parliamo di un'elettronica stratificata, evocativa, fra l'altro non ci sono chitarre, quindi solo archi, tastiere, basso e batteria, è davvero una produzione veramente molto interessante. Noi adesso andiamo avanti e troviamo un artista dal nome molto particolare. Ti chiedo subito, prima di andare ad ascoltarci Estasi Actor Caldara insieme a Rachele Bastreghi, di dirci qualcosa su questo artista che si chiama Torso Virile Colossale. Fausto, spiegaci un po'. Io non lo conosco. Beh, diciamo che Torso Virile Colossale corrisponde a Alessandro Grazian. Grazian, cantautore che conosciamo bene, è un grandissimo appassionato del cinema peplum, quindi di tutti i cosiddetti, quelli che da noi chiamavano i sandaloni, no? Cioè, quindi comunque i film di ambientazione mitologica, i vari Baciste, Ercole, eccetera. Lui è davvero un appassionato collezionista anche di film di questo genere, che ha avuto una grande popolarità in Italia negli anni 50, diciamo fino ai primi anni 60, più o meno il suo declino ha corrisposto con l'esplosione dello spaghetti western, infatti fra l'altro autori come Sergio Leone hanno cominciato col peplum e poi sono passati al western, e lui ha creato questo progetto, siamo già al secondo album, appunto partendo dalle atmosfere di questi film, però reinterpretandole in chiave comunque indie rock strumentale, quindi pezzi quasi sempre strumentali, in questo caso abbiamo una voce, ma non ci sono parole, non c'è un testo cantato. Ed è davvero un progetto interessante con alcuni dei migliori nomi dell'indie italiano. E ce l'andiamo a ascoltare allora. Estasi, Actor Caldara, Torso Virile Colossale, Rachele Bastreghi da Mondo Peplum. Ooh. Eh no, non era la colonna sonora di Maciste, nemmeno quella di Ercole, ma appunto da il secondo volume di Mondo Peplum, un brano di torso virile colossale che appunto, come ci spiegava poc'anzi Fausto, ironizza, no? Se volete riprende le colonne sonore dei Colossal degli anni 50 dedicate alla storia classica, ai romani o insomma all'antichità e al mondo diciamo mitologico. Estasiator Caldara, questo è il titolo del brano, Fausto, di Torso Virile Colossale. Noi in realtà andiamo ad ascoltarci anche un altro brano uscito anche questo nel 2022 ma in un altro album. Esatto, parliamo di Chi guida l'orgia, è il, diciamo, il singolo di presentazione di Mondo Peplum. Fra l'altro nel titolo dell'album c'è un chiarissimo riferimento anche ai Mondo Movies, quindi parliamo sempre di cinema cult italiano che è conosciuto in tutto il mondo, no? Quindi parliamo di Mondo Cane e simili, in questo caso appunto Mondo Peplum. E Chi guida l'orgia è una battuta tratta dal film Le Baccanti del 61, quindi siamo negli ultimi anni del genere, dove abbiamo un grandissimo Alberto Lupo che interpreta il superbo re di Tebe, Penteo. E quindi abbiamo quindi un riferimento, ovviamente non siamo nell'ambito delle colonne sonore delle commedie sexy italiane degli anni 70, all'epoca non si poteva arrivare a quel livello, e quindi però anche Torso Virile Colossale comunque ci sa essere erotico, esotico e dionisiaco, ecco. Eh sì, proprio il termine esatto. Chi guida l'orgia è il titolo del brano che ci ascoltiamo ora, anche questo è uscito appunto nel 2022, ascoltatevelo. Thank you. attesa per gli sconti fiscali così mai visti del super commissario voluto dal governo, minacciato tra l'altro anche dall'intelligenza artificiale. Detrazione senza limiti di reddito riservata alla sicurezza se la Cina invierà armi a Putin, in un casolare a Tel Aviv, passando per Barcellona. Mazzurca, valzer e pulce, il campione del mondo Lionel Messi ha siglato un accordo per la realizzazione di una serie animata ispirata alla vita di Casadei, quella di un fuoriclasse volato dalle balere alle piazze, ai concerti, una tradizione nel mirino. Doppiatori e doppiatrici scioperano per tutelare la qualità artistica del loro lavoro. Il calciatore argentino, li inseguiremo dappertutto. 40 anni fa veniva messo in vendita il primo telefono mobile della storia, fu soprannominato Piantedosi e cambiò la nostra vita, aprendo la strada a due uomini, probabilmente ubriachi, che minacciavano i passanti per tutelare due banche americane specializzate in criptovalute con un taglierino tuttofare. La crisi dei pomodori spaventa anche l'Italia. L'emozione della premier Meloni, li inseguiremo dappertutto, perché spesso non ti vedono arrivare. Soffre anche la ristorazione. In vacanza con la famiglia in Trentino, alcuni ospiti si lamentano perché lasciati senza cibo. Dalle 20 alle 21, pressing sull'Europa, che assicura il consumo in ritardo, provocherebbe al massimo una perdita di sapore. Dal mare alla montagna, il governo pronto a fare di tutto per favorire una ripresa del processo di pace in Medio Oriente, anche il picchiare un coetaneo per una contesa. Sul premier israeliano Netanyahu potrebbe essere scritto spesso buono oltre, allungando di fatto la data di scadenza. E avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto, che quest'oggi, lo avete sentito, ci sta accompagnando in diretta qui a Zibaldone su Radio Contrabanda. Banzo, come sempre, insomma, una visione un po' diversa della realtà rispetto a quella che ci mostrano i giornali, i telegiornali e anche insomma i mass media. Perché non ce lo dicono, Steven. C'è sempre questa cospirazione per occultare la verità, e le ultimissime ci svelano come sono davvero le cose. Per esempio, che Messi interpreterà Raul Casadei, che è una delle più belle sorprese che poteva darmi la vita. Io non sono dopo il mondiale. Dopo il mondiale, no, dici cosa poteva fare Messi? Non sono neanche un particolare fan di Messi, cioè se ti piace il calcio, voglio dire, lo stimi sicuramente, però è proprio che qualcosa mi suggerisce che è la persona giusta per interpretare Casadei, non so cosa, però forse devo aspettare di capire da che parte dell'inconscio viene questo suggerimento. Forse l'accento. Comunque, beh, com'è? Forse l'accento romagnolo, dico. Forse dall'accento di Messi, che è tipicamente romagnolo, sì, come avrai sentito, dire c'è bobo, che mi resta. E poi parliamo, Steven, anche del primo telefono mobile che venne chiamato, o cellulare, che venne chiamato Piantedosi. Questo è un riferimento che io non mi aspettavo, perché non so perché questa scelta. Forse Fausto può dire qualcosa al riguardo, non lo so. Ma in realtà non se ne sa tantissimo, la cosa sola che si sa appunto che ha cambiato la nostra vita, perché aprendo la strada a questi due uomini, che non si capisce bene se minacciano i passanti per tutelare queste due banche americane dedicate alle criptovalute, ma se sono le banche che hanno il taglierino tutto fare o se sono gli stessi due uomini, questo ancora non è stato chiarito. Però ricordiamo anche una cosa, che molti avranno sentito la dichiarazione della premier Meloni, li inseguiremo dappertutto. Si poteva pensare che fosse riferita agli scafisti, effettivamente se ne è molto parlato dopo la tragedia di Cutro. Invece si scopre che era dedicato alla mancanza di pomodori, una crisi che purtroppo ci sta attanagliando, e anche è successo questo anche in Trentino, come ci hanno ricordato le ultimissime. Eh sì, insomma, comunque forse, prego Banzo. Forse questi pomodori che avevano bisogno di essere inseguiti sono gli stessi pomodori assassini di un famoso film horror trash australiano, che vi consiglio di recuperare se volete avere degli incubi lisergici, per una volta non rosso sangue ma rosso pomodoro. Eh sì, noi andiamo avanti perché ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, ci rimangono ancora pochi minuti qui su Radio Contrabbande. Andiamo a trovare Banzo, un altro artista, lui si chiama Davide Andreoni, Fossili è il suo disco uscito nel 2023. Andiamo subito ad ascoltarci una canzone che si intitola Piumaggi e poi ne parliamo insieme a te. Thank you. rimaniamo sullo strumentale con questo Piumaggi di Davide Andreoni, tratto dal suo disco Fossili, Banzo. Sì, un disco che ha per sottotitolo Raccolta di fantasie preistoriche, e in effetti, dovendo inventarsi un'etichetta abbastanza estemporanea per definire il suono di questo album, io appunto parlerei di lounge preistorica. È un disco uscito il 24 febbraio per l'etichetta indipendente Dischi Bervisti, che è l'etichetta di Nicola Malzan, noto anche come Bologna Violenta, che è uno dei membri di Torso Virile Colossale, con i quali ha collaborato lo stesso Davide Andreoni, che in una serie di coincidenze mistiche è di La Spezia. Quindi, appunto, abbiamo tutto torna, tutto torna. Sì, è veramente... No, beh, diciamo che fino al riferimento alla Spezia si tratta di una mappatura di collaborazioni nella scena indie che sono effettive. Poi per il resto, effettivamente, ho appreso proprio adesso delle origini di Andreoni. Mi è parsa una coincidenza curiosa. Stiamo menzionando la città di La Spezia molto spesso. E comunque è un disco dal suono veramente interessante. Lo diceva anche l'Instagram di Dischi Bervisti alla presentazione, credo definendolo un disco come se ne sentono pochi, perché al di là di giudizi di valore, che per me comunque sono abbondantemente positivi, è un suono molto peculiare, come poi se possiamo sentire approfondendo anche con questo secondo brano, Steven. Eh sì, L'invasione delle terre emerse, sempre Davide Andreoni. We'll be right back. L'invasione delle terre emerse fossili, il disco di Davide Andreoni, secondo brano che vi proponiamo. Banzo, noi ormai siamo davvero agli sgoccioli, però ci rimangono ancora due canzoni. La prossima è di un artista che forse, insomma, se la gente non presta attenzione, pensa di conoscere da oltre 60 anni, però non è così. Esatto, e peraltro ho scoperto che sono difficilissimi da trovare su Google proprio per questo fatto, perché si chiamano i Gini Paoli. I Gini Paoli, aspetta che lo articolo meglio perché magari in radio. Si tratta di un gruppo, prova a indovinare di dove? Ma forse di Genova, no? Esatto, esatto, non di La Spezia in questo caso. Sono in zona però. Beh, con questo nome però, insomma, sono voluti dichiarare abbastanza apertamente, poi potevano essere anche di Marte, però, e però sono un po' marziani nel suono, che è veramente una sintesi interessante che unisce anche cumbia, musiche di derivazione latinoamericana, questa attitudine scoppiettante, non userei punk in termini di suono, ma sì in termini di attitudine. Il disco si intitola Esotica Naturalizzata, quindi mezzo in italiano, mezzo in spagnolo. E effettivamente è una confusione che è presente anche nei titoli e nei pochi interventi testuali, perché spesso i brani sono strumentali, questa oscillazione fra l'italiano e lo spagnolo. Questo disco è stato inciso in quintetto, il disco precedente era in terzetto e si intitolava Amargados, quindi ancora una volta vedi questa confusione. E noi ci andiamo ad ascoltare Fibrocemento, eccola qui. è molto bella questa fibrocemento dei Gini Paoli, esotica naturalità dal loro disco. Da Genova, Fausto, facciamo un salto indietro per chiudere di nuovo a Bologna. Bologna violenta, esatto. In realtà poi siamo, diciamo, in Veneto più per la precisione, sì. Perché abbiamo questa inedita collaborazione fra Bologna violenta e Pierpaolo Capovilla. In realtà Nicola Manzan, cioè Bologna violenta, aveva già fatto il chitarrista per un certo periodo per il Teatro degli Orrori, è sopravvissuto e vive e lotta insieme a noi, quindi abbiamo questa collaborazione che è uscita il 31 di dicembre dell'anno scorso, quindi proprio a cavallo fra il 2022 e il 2023. Ci propone, nelle parole di Capovilla, un testo che unisce con il Taglia e Cuci brani di discorsi di Berlinguer, di Amintore Fanfani, di Almirante sul tema del divorzio, proprio estratti dalla campagna elettorale del referendum del 12 maggio 74. E allora ce la andiamo a sentire dalla Culla alla Bara, dalla compilation Pipa Popcorn volume 5, Bologna violenta con Pierpaolo Capovilla. Grazie Fausto di averci accompagnato anche questa settimana, ti aspettiamo presto di nuovo a Zibaldone. Certo, alla prossima. E Banzo, grazie anche tu di essere stato con noi e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato in queste due ore qui su Radio Contrabbanda. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, come sempre, dalle 18 alle 20. Niente di più, niente di meno, forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 19.56, diceva tutti i venerdì. Che la prossima puntata sarà in diretta non da Bologna, non dal Veneto, ma ovviamente dallo stadio Piccolo di La Spezia. Sì, andremo lì. Ciao Banzo, grazie, alla prossima. Buon venerdì sera a tutti. Negli anni 70 si apre un periodo di interessanti lotte sociali e vengono sul tappeto i grandi problemi della società moderna, cioè i problemi familiari, il divorzio, l'aborto, il problema del femminismo. È vero. Camera ci sono, in termini di potere, i comunisti, ma in anticamera ci sono i socialisti con le loro leggi cosiddette permissive, in sostanza eversive. È pronta la proposta di legge socialista per il libero aborto, è pronta la proposta di legge socialista per la libera droga. Non votate come vorrebbero votaste quelli delle Brigate Rosse. Per confondere le cose sono arrivati al punto di dire che il 12 maggio si vota a favore o contro il comunismo. Hanno cercato di mettere paura, profetizzando l'apocalisse, speculando sui sentimenti più delicati e sugli effetti più cari. Ma il fatto più vergognoso è il modo in cui certi esponenti antidivorzisti si sono rivolti ai bambini. In certi asili e in certi istituti hanno messo nelle tasche del grembiolino dei fanciulli di 5, 6 anni volantini intimidatori e provocatori. I figliuoli nel loro cuore hanno degli orfani. Il dolore. Sono giunti a spaventare i bambini a tal punto che essi sono tornati a casa talvolta piangenti, ripetendo ai genitori la menzogna che era loro stata messa in testa. Sarebbero stati abbandonati dal papà e dalla mamma. Il 12 maggio si decide sulla famiglia. Chi la vuole difesa dalla tentazione del facile divorzio vota